Padre, avvicinati a me, aggiunse Stenio, concedimi una grazia, andare a pregare per me davanti al Cristo nella tua cappella. Non oserei lasciarti nello stato d'animo in cui ti trovi, rispose Magnus, vieni con me. Che cosa temi? Disse freddamente Stenio. Non ho forse giurato a Tremor che mi avrebbe trovato qui? Non è solo domani che scade il mandato e che sarò libero di lasciarti se Tremor non sarà tornato? Quale pensiero si rotola negli occhi impauriti? Mi sbaglio, pensò il monaco credulone. I suoi progetti non sono cattivi. Tremor tornerà domani e stanotte io pregherò. Il monaco si inginocchiò sul marmo, dove la luce della luna si rifletteva sulle ametiste e sui rubini pallidi delle vetrate. Dopo un'ora tornò al lago e Stenio non c'era più. Il monaco era spaventato, guardò il lago, la luna era tramontata e in fondo all'abisso si vedeva solo un vapore opaco che si stendeva sulle canne come un sudario. Un profondo silenzio regnava ovunque, l'odore di iris si alzava debolmente sulla brezza calda e disinvolta, l'aria era così dolce, la notte così blu e pacifica che i pensieri sinistri del monaco furono involontariamente cancellati. Un usignolo iniziò a cantare con una voce così dolce che Magnus si fermò ad ascoltare. Era possibile che un'orribile tragedia si fosse appena consumata in un luogo così tranquillo, in una così bella notte d'estate? Il pensiero oscuro svanì. Magnus tornò lentamente e silenziosamente alla sua cella. Camminava per il cimitero, avvolto nell'oscurità, guidato dall'istinto e dall'abitudine tra gli alberi e le tombe. A volte, però, urtava il marmo di un cenotafio e si ritrovava avvolto dai rami pendenti dei vecchi tassi, ma nessuna voce lamentosa, nessuna mano tiepida lo fermò. Si sdraiò sui giunchi del suo letto e le ore della notte risuonarono nel silenzio. Ma cercò invano di addormentarsi. Non appena chiuse gli occhi, vide davanti a sé un'immagine incerta e minacciosa. E ben presto un'immagine più distinta, più terribile, lo assalì e lo svegliò. Stenio con le sue bestemmie, i suoi empi dubbi, Stenio che aveva lasciato solo in riva al lago, gli sembrava di vederlo aggirarsi intorno al suo letto e di sentirlo ricominciare con le sue domande insulse e crudeli a tormentare l'anima del povero prete. Magnus si alzò e, appoggiandosi al letto, con il viso sulle ginocchia tremanti, si interrogò come per la prima volta sui piani di Stenio. Perché il poeta ha eliminato il testimone della sua angoscia? Dopo aver fatto a pezzi tutte le credenze insegnate dalla Chiesa, dopo aver frugato con un dito insanguinato e senza pietà tutte le vergognose ferite del suo cuore, perché aveva mandato via il prete? Per pregare? Oh no, Stenio non sapeva più come pregare. Stava aspettando Tremor, ma il saggio non sarebbe tornato prima del giorno successivo. Era Lelia che stava aspettando. A questo pensiero il sacerdote balzò sul letto e per un attimo desiderò che Stenio morisse. Ma presto questo desiderio empio lasciò il posto a preoccupazioni più generose. Temeva che, stanco di combattere contro un dio inesorabile, Stenio avesse portato a termine un piano sinistro. Ricordava con orrore alcune delle terribili parole del giovane sul nulla che assolveva il suicidio, sull'eternità che non lo vietava, sull'ira divina che non poteva impedirlo, sull'indulgenza misericordiosa che doveva permetterlo. Magnus non aveva dimenticato che la vita presente era per Stenio una punizione che sfidava tutte le punizioni future con cui la Chiesa lo minacciava. Il sacerdote, costernato, si affrettò ad attraversare la cella. Aveva un solo modo per chiarire la sorte di Stenio, ovvero fare in modo che tornasse in convento. Ma questo avrebbe significato entrare nelle stanze riservate ai secolari e la regola dei camaldolesi si opponeva formalmente a questo. Due o tre volte si chiese se, per salvare la vita di un uomo e l'anima di un cristiano, non fosse permesso violare le leggi della disciplina ordinaria. Ma lo spirito monastico, che nelle menti deboli restringe l'intelligenza e inaridisce la sensibilità, gli faceva temere più la rabbia del priore che il rimorso della sua coscienza. Preferì incorrere nei rimproveri di Dio piuttosto che nei castighi del suo ordine e decise di aspettare il giorno. Rivide nella memoria tutti gli anni della sua giovinezza. paragonò i suoi dolori a quelli di Stenio, si gloriò della sua rassegnazione, cercò di disprezzare la rabbia dello sventurato che aveva appena lasciato. Balbettò qualche parola altezzosa e sdegnosa, mormorò qualche sillaba confusa tra i denti. Scosso dal digiuno e dall'insonnia, come se volesse congratularsi per una vittoria decisiva sulle sue passioni, poi recitò frettolosamente alcuni versi mutilati che consolavano il suo orgoglio senza attenuare l'amarezza del suo cuore. Ogni volta che l'orologio della cappella batteva le ore, Magnus trasaliva, biasimava la marcia del tempo, guardava il cielo, contava le stelle ostinate, poi, quando il suono si affievoliva, quando tutto taceva, quando era solo con Dio e con i suoi pensieri, ricominciava la sua monotona e lamentosa preghiera. Finalmente apparve la luce del giorno, come una linea bianca all'orizzonte, e Magnus tornò sulla riva del lago. Il vento non aveva ancora sollevato le sue vele nebbiose e il monaco poteva scorgere solo gli oggetti vicini alla sua vista. Si sedette sulla pietra dove Stenio si era seduto il giorno prima. La giornata si stava svolgendo lentamente, la sua ansia stava aumentando. Con l'aumentare della luce gli sembrò di scorgere dei caratteri tracciati sulla sabbia ai suoi piedi. Si chinò e lesse: «Magnus, dirai a Trenmore che ho mantenuto la mia parola. Mi raggiungerà qui». Dopo questa iscrizione, la traccia di un piede, una leggera caduta di sabbia, e poi nient'altro che il rapido pendio, dove la polvere del terreno in pendenza non conservava più alcuna impronta, e il lago, con le sue ninfee e qualche alzavola nera, nel fumo bianco. In preda al terrore, Magnus cercò di scendere nel burrone, recuperò una vanga dal cimitero e, scavando con cura una scala nella sabbia, mentre vi affondava il piede incerto, raggiunse, dopo mille pericoli, il bordo dell'acqua tranquilla. Su un tappeto di morbido e vellutato crescione verde giaceva il giovane, dagli occhi azzurri, pallido e tranquillo. Il suo sguardo era fisso sul cielo, il cui azzurro si rifletteva ancora nel suo cristallo immobile, come l'acqua la cui sorgente si è prosciugata, ma il cui bacino è ancora pieno e limpido. I piedi di Stenio erano sepolti nella sabbia della riva, la sua testa riposava tra i freddi calici dei fiori che un leggero vento piegava su di essa. I lunghi insetti che svolazzano sulle canne erano arrivati a centinaia per posarsi intorno a lui. Alcuni bevevano i residui di profumo impregnati nei suoi capelli bagnati, altri agitavano le loro vesti di garza blu sul suo viso come se ne ammirassero curiosamente la bellezza o lo sfiorassero con il vento fresco delle loro ali. Era uno spettacolo così bello, questa natura tenera e civettuola intorno a un cadavere, che Magnus, incapace di credere alla testimonianza della sua ragione, chiamò Stenio con voce stridula e gli afferrò la mano, come se sperasse di destarlo. Ma vedendo che il ragazzo era annegato da diverse ore, un timore superstizioso si impadronì del suo animo timoroso. Si credette colpevole di questo crimine e, pronto a cadere accanto a Stenio, emise grida sorde e inarticolate. Alcuni pastori della valle che passavano dall'altra parte del lago videro questo monaco desolato che si sforzava invano di tirare fuori dall'acqua il cadavere del suo amico. Scesero lungo un pendio più dolce e con rami e corde trasportarono il morto e il vivo fino alla scarpata sull'altro versante. I pastori non conoscevano il segreto della morte di Stenio, portavano religiosamente sulle spalle il monaco e il poeta. Si interrogavano l'un l'altro con sguardo ansioso, interrompendo talvolta il silenzio della loro passeggiata per tentare qualche timida congettura, ma nessuno di loro sospettava la verità. Lo svenimento di Magnus sembrò a queste menti rozze e grossolane uno spettacolo di pietà, piuttosto che un oggetto di simpatia. Si chiedevano come un sacerdote, dedito per dovere a consolare i vivi e benedire i morti, potesse perdersi d'animo come una donna, invece di pregare su colui che Dio aveva appena chiamato a sé. Non capivano come il camaldolese, che aveva assistito a tanti funerali dal suo ingresso in convento, che aveva ascoltato gli ultimi sospiri di tanti moribondi, potesse comportarsi così vigliaccamente in presenza di un cadavere, che tuttavia era uguale a tutti gli altri cadaveri che aveva visto. Il risveglio della natura fu presto seguito dal risveglio della vita attiva. Il lavoro interrotto ricominciava con il nuovo giorno. Quando gli abitanti della pianura videro da lontano i pastori che avanzavano, si affrettarono a circondarli. Ma alla vista dei rami intrecciati su cui giacevano Magnus e Stenio, la domanda che stavano per fare spirò loro sulle labbra. La loro ingenua curiosità fu sostituita da una tristezza sorda e silenziosa, perché la morte passa inosservata solo in mezzo a città popolose e rumorose. Nel silenzio dei campi, in mezzo alla vita austera della campagna, è sempre accolta come la voce di Dio. Solo chi passa i suoi giorni dimenticando di vivere si allontana dalla morte come da una vista sgradita. Chi si inginocchia notte e mattina per ringraziare non passa mai indifferente davanti a una bara. Giunti a un centinaio di passi dal bordo del lago dove avevano trovato Stenio, i pastori si fermarono e deposero il loro pio fardello sull'erba umida. Il sole nascente colorava l'orizzonte di sfumature viola e arancioni. Un vapore caldo e abbondante fluttuava lungo il pendio. La fertile rugiada scendeva dal cielo e vi ritornava come il santo ardore di un'anima riconoscente che ritorna a Dio che l'ha infiammata con il suo amore. Ogni narciso della montagna era un diamante. Le cime nuvolose erano coronate da un diadema d'oro. Tutto era gioia, amore e bellezza intorno al catafalco rustico. Un gruppo di ragazze attraversava la valle per condurre le giovenche a strisce fino alla riva del lago e per affidare agli echi quelle ballate rozze, più semplici che prudenti, il cui ritornello giungeva talvolta alle orecchie dei monaci oranti. Questi bruni figli della montagna si fermarono senza terrore davanti allo spettacolo funebre, ma sotto i loro grandi petti maschili la natura semplice aveva lasciato vivere il cuore dritto e compassionevole della donna. Si commossero senza piangere per la sorte di questi due uomini sfortunati e si incaricarono di spiegarla ai pastori. «Questo», dissero indicando il monaco, «è il fratello di quello annegato. Volevano pescare le trote nel lago. Il più audace dei due si era avventurato troppo lontano. Aveva gridato aiuto, ma l'altro aveva avuto paura e gli mancavano le forze. Dobbiamo raccogliere le erbe per curarlo. Gli metteremo foglie di salvia rossa sulla lingua e tansi sulle tempie. Bruceremo della resina intorno a lui e lo accenderemo con foglie di felce». Mentre le ragazze più grandi cercavano nell'erba bagnata le spezie che avrebbero dovuto aiutare Magnus, alcune matrone recitavano la preghiera per i morti e le montanare più giovani si inginocchiavano intorno a Stenio, per metà riverenti e per metà curiose. Toccarono i suoi vestiti con un misto di paura e ammirazione. «Era un uomo ricco», dissero le vecchie. «È un peccato che sia morto». Una bimba passò le dita tra i capelli biondi di Stenio e li asciugò nel grembiule con una cura che stava a metà tra la venerazione e il serio piacere di giocare con un oggetto insolito. Al suono delle loro voci confuse, il sacerdote si svegliò e si guardò intorno con occhi sconcertati. Le matrone vennero a baciargli la mano smunta e a chiedere devotamente la sua benedizione. Rabbrividì lui quando sentì le loro labbra premere contro le sue dita. «Sono un peccatore. Dio si è allontanato da me. Pregate per me. Sono io che rischio di perire». Si alzò e guardò il cadavere, sicuro di non aver sognato. Rabbrividì con una silenziosa convulsione interiore e si sedette a terra, sopraffatto dal peso dello spavento. I pastori, vedendo che non pensava di dare loro ordini, si offrirono di portare il cadavere al convento. Questa proposta risvegliò tutta l'angoscia del monaco. «No, no, no», disse, «non può essere. Aiutatemi, aiutatemi a trascinarmi fino alla porta del monastero». E quando Magnus si inginocchiò davanti al priore, «Mi benedica, padre», disse, «perché sono venuto a lei macchiato di un grande crimine. Ho causato la dannazione di un'anima. Stenio, il viaggiatore, l'amico del saggio Trenmore, il giovane Stenio, questo figlio del secolo con cui mi ha permesso di parlare spesso per cercare di riportarlo alla verità. L'ho consigliato male. Mi è mancata la forza e l'unzione per convertirlo. Le mie preghiere non sono state abbastanza ferventi. La mia intercessione non è stata gradita, Dio. Ho fallito. Oh, Padre mio, sarò perdonato. Non sarò forse maledetto per la mia debolezza e impotenza. Figlio mio, disse il priore, i disegni di Dio sono imperscrutabili e la sua misericordia è immensa. Cosa sai del futuro? Il peccatore può diventare un grande santo. Ci ha lasciato, ma Dio non lo ha abbandonato. Dio lo salverà. La grazia può raggiungerlo ovunque e tirarlo fuori dall'abisso più profondo. Dio non l'ha voluto, disse Magnus, il cui occhio fisso era rivolto alla terra con sconcerto. Dio l'ha lasciato cadere nel lago. Ma cosa stai dicendo? Gridò il sacerdote alzandosi in piedi. La tua ragione è confusa. Il peccatore è morto? Morto, disse Magnus, annegato, perduto, dannato. E come è avvenuta questa disgrazia? Chi ne è stato testimone? Non avete cercato di evitarlo? Avrei dovuto prevederlo. Io avrei dovuto prevenirlo. Ho mancato di perseveranza. Ho avuto paura. Da un'ora parlava con voce alta e lamentosa. Ha dato la colpa al destino, agli uomini e a Dio. Ha invocato una giustizia diversa da quella in cui confidiamo. Ha calpestato le nostre credenze più sacre. Ha invocato il nulla. Si è preso gioco delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici e delle nostre speranze. Sentendolo bestemmiare così, «Oh, Padre mio, perdonami! Invece di infiammarmi di santa indignazione ho pianto. Stando a pochi passi da lui, potevo sentire a metà le sue parole fatali. A volte il vento le catturava al loro passaggio e le portava in cielo, che da solo era abbastanza potente da assolverle. E quando il vento taceva, quella voce cupa, quella terribile maledizione, tornava a colpirmi l'orecchio e a gelarmi il sangue. Ero un vigliacco, ero abbattuto!» Cercavo di costruire un baluardo tra le righe avvelenate della sua parola e la mia anima tremante. È stato inutile. Lo scoraggiamento, la disperazione si insinuavano in me come veleno. Volevo interromperlo. L'idea del suo orribile sorriso mi incatenava la lingua. Volevo portarlo via. L'audacia del suo sguardo contemplativo mi paralizzava al mio posto. Avevo un solo pensiero, un solo bisogno, una sola tentazione insormontabile, quella di scappare, di andare a pregare nella cappella, di sfuggire a questo pericolo che non potevo allontanare da lui e che mi stava invadendo. Mi chiese quindi di lasciarlo. Io lo lasciai meccanicamente, felice di sfuggire alle mie sofferenze e di rifugiarmi ai piedi di Cristo. Ero troppo occupato con me stesso. Ho dimenticato troppo la cura del peccatore che Dio mi aveva affidato. Invece di prendere sulle mie spalle la pecorella smarrita, avevo paura della solitudine, della notte e dei lupi divoratori. Sono tornato da solo all'ovile, da cattivo pastore. Ho abbandonato la pecora smarrita e quando sono tornato non l'ho trovata. Satana aveva preso la sua preda, lo spirito del male aveva trascinato questa vittima nell'abisso della perdizione eterna. «Ma che cosa dici? Cosa dici? Dov'è il peccatore?» gridò il priore, scoprendo la sua testa bianca con vivacità. «Cosa sai della sua morte?» «Ho trovato stamattina nell'erba del lago questo corpo dove l'anima non risiede più. Non ho più nulla da fare, nulla da sperare per Stenio. Ordinami una severa penitenza, padre, affinché io possa andare a farla e lavare la mia anima.» «Parlami di Stenio!» gridò il priore in tono severo. «Dimenticati un po' di te stesso, la tua anima è più preziosa della sua per abbandonarla in questo modo. Cominciamo a pregare per il peccatore che Dio ha punito e poi faremo in modo che tu sia purificato. Dov'è il corpo del giovane? Hai recitato i salmi sui suoi resti mortali, l'hai cosparso con l'acqua che purifica, l'hai fatto portare fino alla soglia della cappella, hai detto al capitolo di riunirsi? Il sole è già alto nel cielo, cosa hai fatto da quando è sorto?» «Niente», disse il monaco sgomento. «Ho perso il senso dell'esistenza. E quando sono tornato in me, Ho pensato di essermi perso. Estenio? Stenio? Gridò il vecchio. Stenio? Disse il monaco Magnus. Non è forse perduto senza ritorno? Abbiamo il diritto di pregare per lui. Dio revocherà i suoi giudizi immutabili per lui. Non è forse morto come Giuda, Iscariota? Di quale morte? Disse il priore spaventato. Suicidio! Suicidio, rispose Magnus con voce vuota. Il vecchio priore sprofondò nella sua sedia di quercia, stringendo le mani gialle e rugose, in preda a un orrore e a uno sgomento inesprimibili. Poi, rivolgendosi a Magnus, lo rimproverò caldamente. Una tale catastrofe è avvenuta quasi sotto i tuoi occhi. Un tale scandalo è avvenuto nel luogo di culto e tu non l'hai impedito. E sei andato a pregare come Maria quando dovevi comportarti come Marta. Sei andato ad alzare la fronte nel tempio come il fariseo. Hai detto: guardami e benedicimi, mio Dio, perché sono un sacerdote santo e quell'uomo senza Dio che sta morendo laggiù può fare a meno di te e di me. Hai sognato e dormito, sciocco monaco, uomo egoista e vigliacco, quando dovevi legarti ai passi di questo disgraziato, gettarti ai suoi piedi, trascinarti nella polvere, usare lacrime, minacce, preghiere e persino la forza per impedirgli di consumare il suo terribile sacrificio. Invece di fuggire dal peccatore come oggetto di orrore e di scandalo, non avresti dovuto baciargli le ginocchia e chiamarlo figlio e fratello mio per addolcire il suo cuore e fargli prendere coraggio, anche solo per un giorno che sarebbe potuto bastare per salvarlo. Il medico diserta il capezzale per paura del contagio. Il samaritano si è forse allontanato disgustato quando ha visto l'orribile ferita dell'ebreo. No? Si è avvicinato senza paura, ha versato il balsamo su di essa, l'ha presa sulla sua cavalcatura e l'ha salvata. E tu, per salvare la tua anima, hai perso l'occasione di riportare il figlio il prodigo tra le braccia del padre. Sei tu, anima gretta e dura, che rabbrividisci di terrore, quando Dio griderà nel mezzo delle tue notti insonni: Caino, Caino, che hai fatto di tuo fratello? Basta! Basta, padre, disse il monaco cadendo a terra e trascinando la barba nella polvere. Risparmia il mio cervello che si sta rompendo, risparmia la mia ragione che si sta smarrendo. Vieni, gridò aggrappandosi alla veste del priore. Vieni con me a pregare sulle sue spoglie, vieni a pronunciare le parole che sciolgono, vieni a toccare l'issopo che lava e imbianca. Vieni a dire gli esorcismi che spezzano l'orgoglio di Satana. Vieni a versare l'olio santo che toglie tutte le macchie della vita. Il priore, toccato dal suo dolore, si alzò triste e irresoluto. Siete proprio sicuri che si sia ucciso? Non è forse l'effetto del caso, o diciamo meglio, di una severità celeste che non ci è dato interpretare e alla fine della quale la sua anima avrà trovato il perdono? Cosa sappiamo? Forse si è sbagliato. Nell'oscurità della notte può accadere un incidente. Parla, figlio mio, hai prove certe del suicidio? Magnus esitava, voleva dire di no, sperava di ingannare la lungimiranza di Dio e per mezzo dei sacramenti della Chiesa di mandare in cielo quest'anima condannata dalla Chiesa, ma non osava. Confessò con un brivido tutta la verità e riportò le parole scritte sulla sabbia. Magnus, vai a dire a Trenmore che mi troverà qui. È troppo vero, disse il priore, lasciando scorrere le lacrime sulla barba bianca. Non c'è scampo a questa luce fatale. Povero fanciullo, mio Dio, la tua giustizia è severa e la tua ira è terribile. Vai, Magnus, aggiunse il vecchio dopo un attimo di silenzio. Chiudi le porte del convento e chiedi a qualche boscaiolo o pastore di seppellire questo cadavere. La chiesa ci proibisce di aprire le porte del tempio e di seppellirlo in terra santa. Questo giudizio spaventò Magnus più di ogni altra cosa. Batté forte la testa sul selciato e il sangue gli colò sulla guancia livida senza che se ne accorgesse. Su, su, figlio mio, disse il priore sollevandolo. Fatti coraggio. Obbediamo alla Santa Chiesa, ma speriamo. Dio è grande, Dio è buono. Nessuno ha scandagliato le profondità dei tesori della sua misericordia. Inoltre siamo uomini deboli e con menti limitate. Obbediamo alla lettera e non mettiamo in discussione lo spirito delle leggi sacre. Nessun uomo, nemmeno il capo della Chiesa, ha il diritto di condannare irrevocabilmente un altro uomo. L'agonia del peccatore può essere stata lunga, mentre lottava contro l'avvicinarsi della morte, potrebbe essere stato illuminato da una luce improvvisa, potrebbe essersi pentito e aver pronunciato una preghiera così fervente e pura da riconciliarlo con il Signore. Non è il sacramento che assolve, è la contrizione. Come sai, un momento di questa sincera e profonda contrizione può valere un'intera vita di penitenza. Preghiamo e siamo umili di cuore. Nella giovinezza di Stenio le virtù erano abbastanza sublimi, forse da lavare via tutte le iniquità del futuro, e nella nostra vita passata possono esserci tali macchie che tutta l'astinenza del presente e del futuro difficilmente le assolverà. Vai, figlio mio, se la regola mi vieta di ammettere questa salma nel convento e di accompagnarla al cimitero con le cerimonie del culto, almeno la chiesa mi autorizza a darti una licenza speciale. Si tratta di andare a vegliare la salma e di accompagnarla all'ultima dimora, recitando le preghiere che la tua carità ti imporrà, purché non siano conformi al rito consacrato per le sepolture cristiane. Vai, è il tuo dovere, è l'unico modo per riparare, per quanto è in te, al male che non sei riuscito a prevenire. Sta a te ottenere la grazia per lui e per te stesso. Io pregherò per la mia parte. Tutti noi pregheremo, non in coro e nel santuario, ma ognuno nella propria cella e nel fervore della propria anima.